Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna. Ben ritrovati ad Assemblea On Air, il programma che racconta le attività dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna. In studio Margherita Giacchi e Francesca Mezzadri. In questa puntata, le due giornate di aula sull'alluvione in Emilia-Romagna, i numeri sui danni e sulle ricostruzioni e poi la norma sugli impianti fotovoltaici e la tutela del territorio. Alcuni question time presentati dai consiglieri e la mostra inaugurata in assemblea sulla Costituzione. Cominciamo con il dibattito sui danni provocati dall'alluvione e il confronto sugli interventi di ricostruzione. Un minuto di silenzio in aula, nel giorno del lutto nazionale per le 15 vittime dell'alluvione. Poi l'Assemblea legislativa ha fatto un primo bilancio degli enormi danni che hanno interessato la Romagna. I primi numeri parlano di almeno 7 miliardi necessari per la ricostruzione. Quasi 40.000 gli sfollati. 23 i fiumi esondati contemporaneamente. Centinaia di frane, più di 100 i comuni coinvolti. Quasi 5.000 uomini e donne della protezione civile impegnati giorno e notte per assistere la popolazione. Sono scesi 350 milioni di metri cubi di acqua su una superficie di 800 km quadrati. Per la vicepresidente della Regione, assessore all'ambiente Irene Priolo, lo stanziamento da parte del governo dei primi 2 miliardi di euro per le imprese e l'impegno a ridurre le tasse sono importanti, ma serve un decreto speciale. Per il presidente Stefano Bonaccini bisogna trovare un accordo complessivo tra fondi europei e PNRR. Il Partito Democratico rivolge lo sguardo alla ricostruzione e il modello utilizzato durante il terremoto del 2012 è da prendere come esempio. Sentiamo la capogruppo, Marcella Zappaterra. Ricostruzione sulla quale dobbiamo, a mio parere, far tesoro dell'operato del terremoto. Il terremoto a distanza di 11 anni l'abbiamo gestito bene, abbiamo ricostruito, penso di poter dire anche meglio di quanto abbiano fatto in altri territori, e quindi fuori dalle polemiche dare una mano alle persone e cominciare a costruire i prossimi passaggi. La relazione presentata in aula dalla Giunta delude invece il capogruppo della Lega, Matteo Rancan, che parla di poca autocritica. Quello che ci aspettavamo dalla Giunta era anche un po' di presa di posizione rispetto a qualcosa che non è andato per il passato. Se la Giunta continua a dare per scontato che tutto sia sempre andato bene senza fare nemmeno un pochino di autocritica, questo diventa problematico perché significa che non ci farà fare nessun passo avanti. Durante il confronto in aula sono state approvate le risoluzioni della maggioranza sugli interventi di ricostruzione, respinte invece quelle di Lega e di Forza Italia. Approvata quella di Rete Civica. Sentiamo Marco Mastacchi. I tronchi caduti nei mesi e negli anni passati, abbandonati sul posto, hanno creato il danno che abbiamo tutti sotto gli occhi. Quindi bisogna passare da una tutela dell'ambiente ideologica, quindi la natura non si tocca, a una natura che va invece curata e manutenuta. Di investimenti sulla manutenzione ha parlato anche Federico Amico, di Emilia Romagna Coraggiosa, che ha censurato le prese di posizione contro il mondo ambientalista. È quindi necessario un patto costituente per mettere al centro il tema della cura dell'ambiente ed è sbagliato oggi di puntare il dito contro gli ambientalisti che sono probabilmente stati sempre i primi a denunciare quanto stava per poter accadere. Critiche da Silvia Piccinini del Movimento 5 Stelle, che anche in occasione della prima alluvione del 2 maggio aveva sollevato il problema dei rischi che correva l'Emilia Romagna. Siamo una regione dallo smodato consumo di suolo e abbiamo una legge urbanistica che non sta funzionando. Quindi noi chiediamo di mettere mano appunto alla legge 24 del 2017 e di approvare con urgenza una legge sulla mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Per Stefania Bondavalli della lista Bonaccini è importante aiutare le aziende nella ripresa, ma è prioritario che le persone possano rientrare nelle loro case. Bene i primi aiuti stanziati dal governo, bene l'incontro che il presidente Bonaccini ha avuto insieme alle parti economiche e sociali appunto con il governo, ora però serve fare presto e stanziare risorse anche per le famiglie e per le persone. Cambiamo argomento, usare l'energia pulita e tutelare il patrimonio agroalimentare e paesaggistico dell'Emilia Romagna. Sono gli obiettivi della norma votata a larga maggioranza dall'Assemblea legislativa per far coesistere l'installazione di nuovi impianti fotovoltaici con le esigenze produttive del territorio. Un percorso tutt'altro che scontato, visto che fino a poco tempo fa la tecnologia fotovoltaica era intesa sempre in contrasto con il consumo del suolo a fini agricoli. Il testo cerca così di fornire linee di azione utili sia al settore energetico che a quello dell'agricoltura. Meno pannelli solari a terra, dunque, e un maggiore ricorso a soluzioni che non prevedano l'occupazione del suolo, così da dare garanzie alle numerose aziende del territorio. L'anello di congiunzione potrebbe essere il cosiddetto agrivoltaico, una tecnologia innovativa che prevede l'installazione degli impianti a diversi metri dal suolo. Tra le soluzioni alternative è prevista anche la possibilità di coprire con pannelli solari i grandi parcheggi, ad esempio quelli davanti alle aziende, e mettere mano ai regolamenti comunali per l'installazione sui tetti. Lo sviluppo delle energie rinnovabili è centrale e strategico per le nostre comunità, ha sottolineato Luca Sabatini del Partito Democratico, relatore del provvedimento. Ci siamo concentrati su due aspetti principali. Uno è quello della tutela del territorio agricolo, dall'altro abbiamo cercato di togliere tutti i vincoli possibili per l'utilizzo, per la produzione di energie rinnovabili da fotovoltaico, tutte quelle aree che sono già, diciamo, antropizzate. Per il relatore di minoranza della Lega, Emiliano Occhi, il tema dell'energia è centrale per famiglie e imprese. Questa rappresenta la sintesi massima che siamo riusciti a fare per contemperare tutte le esigenze di coloro che vogliono la difesa del territorio, ma anche le esigenze di coloro che vogliono lo sviluppo dell'energia fotovoltaica anche per una differenziazione delle fonti energetiche. Durante le due giornate di assemblea legislativa, i consiglieri hanno anche presentato il loro question time. Giancarlo Tagliaferri di Fratelli d'Italia punta il dito su un progetto che riguarda la cassa di espansione del torrente Baganza, in provincia di Parma. Secondo il consigliere, l'incarico sarebbe dovuto andare al nucleo di progettazione AIPO Regione, al contrario sarebbe stato affidato ai tecnici AIPO. Sentiamo il consigliere. Quello che abbiamo voluto sottolineare è una maggiore attenzione da parte della Regione. Con la risposta dell'assessore non siamo assolutamente rimasti soddisfatti, proprio perché questa necessità di prevenzione giorno dopo giorno si fa sempre più importante. Roberta Mori del Partito Democratico è intervenuta per chiedere alla Regione di attivarsi per il reinserimento sociale delle donne detenute negli istituti penitenziari dell'Emilia-Romagna. L'obiettivo, spiega, è quello di colmare i gap e favorire la formazione nelle carceri. La nostra richiesta è quella di considerare dei criteri di coinvolgimento delle donne nell'ambito dei bandi di formazione, in modo tale che per loro, come per gli uomini, sia consentito accedere al corso di formazione, ma anche ai corsi di istruzione che le qualifichi. Passiamo alla cultura. Ogni articolo della Costituzione italiana diventa un disegno grazie alla Costituzione illustrata di Roma Arcenaro. Il famoso illustratore, che era nato a Genova ma abitava a San Martino in Rio, in provincia di Reggio Emilia, è scomparso nel 2021 a causa del Covid, e la mostra a lui dedicata viene inaugurata proprio in occasione del 75esimo anniversario dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale e per la ricorrenza del 2 giugno, Festa della Repubblica. La mostra sarà visitabile fino al 5 giugno a Bologna, in Viale Aldo Moro 50, a disposizione per i comuni della regione che ne fanno richiesta anche una pubblicazione dell'esposizione. Un lavoro che si rivolge anche alle scuole, agli insegnanti e agli studenti, come ha spiegato Francesca, figlia di Roma Arcenaro. È veramente stato un successo per i ragazzi, che hanno avuto la possibilità di capire la Costituzione molto più facilmente di quanto non possa essere il testo, che forse a volte è un po' ostico anche per noi adulti, figuriamoci per i bambini o per i ragazzi. Prima di concludere questa puntata, ricordiamo la raccolta fondi della Regione Emilia-Romagna per sostenere persone e comunità colpite dall'alluvione. L'aiuto andrà intestato all'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con causale alluvione Emilia-Romagna. C'è anche un numero verde sull'emergenza, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20, 800 02 46 62. Tutte le informazioni sul sito assemblea.mr.it. Grazie per essere stati con noi e a risentirci alla prossima puntata. Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia-Romagna, programma a cura del Servizio Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna. In redazione Margherita Giacchi, Andrea Perini e Isabella Scandaletti. Contributi audio di Davide Landi, Agenzia Dire, direttore Mauro Sarti.